Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Più salario, meno orario. Più salario, meno orario. Più trattenute al signor Milan. Più salario, meno orario. Nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera. 9 minuti in punto, nuova puntata di Uno Nessuno 100 Milan con voi fino alle 11. Potete chiamarci, anzi fatelo, 800 24 00 24. È inevitabile oggi parlare della vicenda, insomma di quello che succederà, che cambierà forse un po' le nostre vite da domani, da quando entrerà in vigore quello che è allo studio del governo, le nuove misure, le mascherine. Vedremo nei dettagli tra poco e ne parleremo con il professor Remuzzi. Poi parleremo di altro, torneremo anche sulla vicenda di Carbone. Ricordate, non Carbonia, non confondetela con Carbonia. Carbone, comune dove si sono candidate due liste di perfetti sconosciuti. Una lista era, legata in tanti suoi esponenti a poliziotti di Reggio Calabria, così pare. Avremo oggi il questore di Reggio Calabria per cercare di capire che cosa effettivamente sia successo lì, ma avremo tanti altri temi. State con noi fino alle 11, come detto. Oggi Leonardo Manera non c'è, ma questa volta l'aveva detto in fase contrattuale, quindi oggi è giustificato. Torna con noi domani il buon Lentopede, e allora insieme a Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi, Lorenzo Nespoli, il nostro alpino in regia, può dare il via alla puntata. I will not be easy and it will not be easy. E io, come tutti i giorni da qualche giorno, voglio iniziare con questo campanello che vi deve entrare un po' nella testa e che dice così: sono 35 giorni che 18 pescatori di Mazara del Vallo sono trattenuti, detenuti in Libia senza alcun motivo. O forse il motivo c'è, ce lo dicano. 35 giorni, 18 pescatori di Mazara del Vallo trattenuti senza un'accusa precisa, se non quella di avere violato le acque della Libia pescando. Le autorità, sono sicuro, stanno lavorando, però dalla Libia zero assoluto, così. Allora signori, 9:11 minuti, oggi devo dire l'audio del giorno, prima di parlare della vicenda coronavirus eccetera, è di Roberto Saviano, che ha fatto una richiesta di denaro, non per sé ovviamente, denaro per le imprese. Dice: se si ferma il lavoro si ferma tutto, quindi ci vogliono soldi alle imprese, soprattutto alle imprese al sud, soldi, perché altrimenti il lavoro non c'è. Però l'aspetto interessante di quest'audio è che Saviano dice: diamo i soldi, certo, sappiamo che dando soldi una parte di questi finiranno alle mafie. Che possiamo fare? Soldi. Sì, l'elicottero che lancia i soldi. Ma così, sento già la voce, ma così una parte va ai soliti banditi? Certo. È un rischio che dobbiamo correre. È l'unica possibilità. Tenendo conto che una parte di quei soldi loro se li prenderanno comunque. E se non si fa così, cosa succederà? Che loro prenderanno tutto. Tutto. Capito, è un rischio che dobbiamo correre, ma guardate, io sono d'accordo, cioè c'è del pragmatismo in questo. Pensare Io mi ricordo quando un vecchio testimone di giustizia, non collaboratore, non confondete, testimone vuol dire una persona per bene che decide di denunciare l'estorsione ai suoi danni, imprenditore di calabrese, tra l'altro, Pino Masciari si chiama, mi raccontò di come c'era proprio la regola sugli appalti, credo, del 3% in alcune zone, forse in tutte le zone d'Italia, spero di no, in alcune zone d'Italia, per cui se li prendono comunque, cioè... Se proprio non vuoi dare manco un euro alla mafia, beh, non fai un ponte, non fai una strada, non costruisci nulla. Purtroppo, non è che bisogna rassegnarsi, è la triste realtà, la triste. L'ideale, l'utopia sarebbe fare un ponte, una strada, un appalto e non dare neanche un euro al picciotto di turno. Bene, dai, 9:14 minuti, gettiamoci con quest'animo rock sul tema coronavirus a partire da un titolo. Oggi ho visto questo titolo e ho detto no, proprio oggi, tra l'altro stasera, come dire, parentesi mia, c'è la finale, terza edizione del premio Wondi dedicato alla memoria di mia moglie al Teatro Manzoni di Milano. E che cosa mi trovo come titolo di Repubblica? Virus, titolo a carattere cubitale, prima pagina, riparte la battaglia. Taglia, ecco, io ho detto no, ancora con questa immagine vetusta della malattia rappresentata come una battaglia, del virus rappresentato come una battaglia da sconfiggere, il virus che fa un po' il pari con le espressioni dei giorni scorsi del ministro Speranza, resistere col coltello tra i denti, oppure anche un resistere, ho sentito, di scalfariana memoria del sottosegretario della salute Zampa, credo. Insomma, questo, ripeto, me l'ha insegnato mia moglie, che ormai è mancata 4 anni fa quasi. Le parole sono importanti e soprattutto nel tema della malattia, rappresentare la malattia come una battaglia, una guerra, è sbagliato. Pensateci per un attimo e ditemi la vostra, cosa ne pensate. Lo dico anche al mio idolo Ibrahimovic, che quando ha preso il Covid ha detto: il Covid mi ha sfidato, questo virus non sa contro chi si è messo. Ma è una rappresentazione, ma va bene, lo so, muscolare, ma sbagliata, perché si dà l'idea, pensateci un attimo, che chi perda questa battaglia sia uno sconfitto, un debole, un perdente, e il che è profondamente ingiusto per persone che già soffrono per la malattia. Quindi, ecco, devo dire, virus, riparte la battaglia, questo titolo in prima pagina di Repubblica non mi piace. Che devo dire, si potevano usare tante espressioni, questa proprio non mi piace. Non è che voglia partire da qui con il professor Giuseppe Remuzzi, che saluto. Buongiorno professore, buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno. Non voglio partire da qui, da questa idea della battaglia, però se vuole dire qualcosa, magari non è d'accordo, se ha sentito, insomma, questa rappresentazione della battaglia che dobbiamo vincere. Che ne pensa lei? Ma in realtà, in un certo senso, l'abbiamo vinta, perché tecnicamente... la nostra epidemia si sta esaurendo. E come faccio a dirlo? Lo dico sulla base del fatto che, se voi guardate i morti del 2019 e del 2018 e guardate i morti della prima metà di maggio e della seconda metà di maggio, vedete che sono di meno quelli di quest'anno di quelli degli anni precedenti. Poi guardate quelli di giugno e vedete che sono come quelli precedenti. Poi guardate luglio e agosto, non abbiamo ancora i dati di settembre, ma un'epidemia che si manifesta con una mortalità che è inferiore in questi mesi, questi anni, rispetto agli anni precedenti, significa che è un'epidemia che si sta pian piano esaurendo. Anzi, a dire il vero, si sarebbe già esaurita in quei mesi lì. Adesso vediamo i mesi di settembre. Vediamo, certo, questo non vale per febbraio, non vale per marzo e non vale per aprile. Lì c'è stata una importante espressione dell'epidemia, eravamo preoccupati, avevamo le terapie intensive con tantissimi malati, malati a casa che avrebbero dovuto essere in ospedale, era una situazione drammatica che non si sta ripetendo. Sì. No, ma su questo, professore, ragioniamo, perché ovviamente quando uno dice queste cose subito viene bollato come colui che sminuisce, eccetera. Io, giusto per dare qualche nozione, professor Remuzzi, che dirige l'Istituto di Ricerche Mario Negri, mi aggiorni sui numeri se ho sbagliato. È autore di più di 1440 pubblicazioni. Sì, vabbè, quelle lì diciamo sono troppe. Diversi libri, fa parte del comitato di redazione di The Lancet, del New England Journal of Medicine, è stato membro dell'American Association of Physicians di Washington, del Royal College of Physicians di Londra. No, lo dico perché a volte, sai, i titoli non è che sono appiccicati di così, perché uno dice: ma chi è che sta parlando e dice che l'epidemia si sta esaurendo? Vabbè, ecco, il professor Remuzzi, insomma, ha questo curriculum e non solo. Però, professore, le faccio sentire Trump. Ecco, secondo me si può ragionare sui dati. Forse l'immagine di un presidente americano che esce dall'ospedale, si toglie la mascherina e dice di fatto col Covid non abbiate paura, ma lo vogliamo sentire, forse non è l'immagine populista migliore. Sentiamo. Don't let it dominate you. Don't be afraid of it. You're going to beat it. We have the best medical equipment. Insomma, dice: non fatevi dominare da lui, cioè dal virus, e non abbiate paura. Ecco, questo messaggio, professor Remuzzi, è giusto o sbagliato secondo lei dal punto di vista scientifico e, se vuole, della comunicazione? Vabbè, non è il suo ambito, però mi dica lei. Ma io credo che questo sia invece un messaggio profondamente sbagliato, perché per quanto l'epidemia si stia esaurendo, probabilmente si sta esaurendo perché noi abbiamo avuto un comportamento molto responsabile e particolarmente in Italia. Se noi diamo l'immagine che Trump guarisce, Berlusconi guarisce, Briatore guarisce, a parte che sono aneddoti, non vogliono dire niente, ma forse vogliono dire che la malattia è anche meno grave di quella di prima, cosa che abbiamo cominciato a dire a maggio, ma noi dobbiamo invece dare il messaggio contrario. Sappiamo curare bene la malattia, veramente la sapevamo curare anche prima, solo che i malati erano troppi, non riuscivamo a stare dietro a tutti, e dobbiamo mantenere rigorosamente queste misure perché sono quelle che ci proteggeranno a far finire l'epidemia del tutto, esatto, e riprendere una vita normale. Perché ribadiamolo, il professor Remuzzi dice quelle le misure da fare, cioè mascherina, distanziamento, lavare le mani, no assembramenti, queste sono le regole da seguire, no? Queste sono le regole. Ecco, attenzione poi a non esasperare, per esempio la mascherina all'esterno, se tu sei da solo e cammini, non serve assolutamente, può servire all'esterno se sei circondato da molte persone. Quindi questa è un'epidemia che si batte con una grande attenzione, perché la maggior parte delle persone potrebbero essere curate a casa. Tenete conto che il più dell'80% delle persone hanno dei sintomi molto modesti da questa malattia, un po' di raffreddore, un po' di tosse, poi non se ne accorgono nemmeno. Potrebbe essere, con il buon senso, se facciamo le misure giuste, potrebbe finire anche rapidamente, semmai tornerà a primavera, perché sembra che questa malattia non abbia una predilezione per l'inverno, come ci hanno spaventato dicendo seconda ondata, ma per la primavera. Allora, questo è quello problema che io leggevo, scusi, leggevo dichiarazioni in tal senso dell'epidemiologo Donato Greco recentemente, e cioè diceva proprio questo: d'inverno col freddo, guardate che invece non, il virus non ha vita facile, diciamo. Mentre in primavera il timore è più sul ritorno con i primi caldi. Ecco, però siamo assolutamente attrezzati perché sappiamo cosa fare. L'epidemia, tra l'altro, adesso, questa è un'osservazione molto importante, nelle zone più colpite il virus non circola, circola pochissimo. A Bergamo non ci sono casi, nella Lombardia ce ne sono molto pochi. Tenete presente che in Lombardia adesso abbiamo 40 pazienti in terapia intensiva. Quando era il mio compleanno, il 3 aprile, ne avevamo 1444, per quello mi ricordo bene. Capite che c'è una discrepanza enorme, sì. Quindi far paura adesso alla gente è il contrario di quello che noi dobbiamo fare, cioè dare alla gente un senso di responsabilità. Sì, che non vuol dire, lo ribadisco anch'io, liberi tutti. Nessuno sta dicendo questo. Assolutamente. E non andrebbe mai detto. Però se noi li vogliamo responsabilizzare, le persone, le dobbiamo trattare come persone informate, come persone colte. C'è un principio nella medicina che più si conosce più si guarisce. Più le persone conoscono bene i problemi e più è facile che adottino le misure di cui lei ha parlato adesso, che sono così importanti. Ma se noi li spaventiamo, alla fine dicono vabbè, tanto continua a aumentare, è un disastro, facciamo quello che abbiamo voglia. Quindi dice, siamo più a casa, e giustamente lei fa notare, mi diceva anche ieri, che a casa c'è il rischio poi negli ambienti ristretti di paradossalmente aumentare la diffusione rispetto. Esatto, tra l'altro c'è una cosa di cui non parla nessuno. Noi parliamo tanto di tamponi, facciamo i tamponi a tutti, poi troviamo i positivi. E poi cosa facciamo? Perché è giusto andare a cercare tutti i focolai, tutti quelli che hanno anche malattie molto modeste all'inizio, tracciare le persone che hanno avuto contatti con loro, ma poi dove li mettiamo? In Cina l'epidemia è finita molto rapidamente, quello che hanno fatto, hanno creato delle infermerie, dei luoghi dove persone malate, ma non così malate da dover essere in terapia intensiva o avere bisogno di ventilazione assistita, stavano in luoghi dove a seconda della gravità della malattia potevano stare a letto ed essere assistiti, oppure giocare a carte, guardare la televisione, leggere un libro. Noi è di questo che dobbiamo preoccuparci, perché quando troviamo queste persone che possono contagiare gli altri, che non sono tutti gli asintomatici, tutti quel 90% di asintomatici che noi troviamo adesso, li troviamo perché li cerchiamo, ma se noi li cercassimo per l'adenovirus, per il rinovirus, per il P coronavirus, per altri coronavirus, ne troveremo migliaia al giorno. Sì. Noi dobbiamo occuparci di isolare i focolai, ma il primo problema da porsi è dopo, dove chiediamo a queste persone di stare. Però professore, mi scusi, lei cita i dati della Lombardia, di Bergamo, lei è di Bergamo tra l'altro, la preoccupazione sembra spostarsi più al sud, regioni come la Campania, dove ieri avevamo il sindaco De Magistris, per esempio, non ci sono, lamentava il fatto di non avere tantissimi posti in Campania di terapia intensiva, e anzi a dire si è perso del tempo, forse bisognava utilizzare questi mesi per aumentare il numero di posti in terapia intensiva, e non è stato fatto, dice lui. Questo è un problema, perché noi abbiamo sempre pensato che tutto sommato nel dramma è stato bene che succedesse in Lombardia, perché si è riusciti rapidamente a raddoppiare i posti in terapia intensiva, poi non c'era la medicina del territorio che teneva i pazienti a casa. Quello che si può fare rapidamente in Campania, dove è difficile aumentare i posti di terapia intensiva da oggi al domani, perché servono soprattutto i medici e gli infermieri, non servono solo le macchine, è quello di potenziare la medicina del territorio, quindi avere delle unità mobili che non è difficile recuperare, che vanno a casa degli ammalati, fanno l'ecografia, fanno la radiografia del torace, hanno l'ossigeno, perché eravamo arrivati a un punto in cui il paziente si doveva andare a cercare l'ossigeno da solo, in farmacia non c'era, andava nelle fabbriche di ossigeno a prendersi la bombola di ossigeno. Ricordo, abbiamo intervistato gente che portava, correva dal mattino alla sera aziende a portare bombole di ossigeno. Esatto. Invece se noi abbiamo delle unità mobili che siamo ancora in tempo a creare, sono facili, e abbiamo un medico e due infermieri, vanno a casa, stanno attenti, danno un pochino di antinfiammatorio, basta l'aspirina, anche il cortisone quando uno comincia appena appena a non respirare, l'abbiamo sempre fatto prima che venisse lo studio controllato. Ci sono dalle nostre parti, non tutti, la maggior parte dei medici purtroppo telefonavano e dicevano come sta, febbre, prenda l'aspirina, non venga da me, non venga in ufficio, non vada in ospedale, ma c'erano quelli che andavano dai pazienti con questi sistemi. Quelli lì hanno curato anche 40-50 pazienti a casa e nessuno è andato in ospedale, quindi la soluzione secondo me per la Campania è dotarsi rapidamente di unità mobili che siano capaci di fare questo. Intervenire. Senta, il messaggio che arriva di un ascoltatore, ma è un sentimento diffuso. Detto questo, faccio una parentesi, io ho scaricato Immuni, l'ho fatto per un senso di responsabilità, raccolgo anche come dire, la richiesta della presenza del Consiglio che dice scaricate Immuni, lo dico a tutti gli ascoltatori, scaricate l'app Immuni, avete tante app inutili sul telefonino, non fa niente, non viola la privacy e può essere solo che utile se la scaricano in tanti. Un ascoltatore scrive: mi permetto di dire che se non ci mettono il pepe nel sedere o il terrore, noi italiani molliamo il freno e tutto va all'aria. Ecco, qui non c'è tanto la scienza, ma forse la psicologia, professor Remuzzi. Che atteggiamento è, giusto o sbagliato secondo lei? Guardi, io credo che non sia così. Se noi parliamo alle persone, spieghiamo bene, non li terrorizziamo, diciamo quali sono le cose. Diciamo per esempio che aumenteranno i casi di tamponi positivi. Io mi aspetto che saranno 3.000, e poi 5.000, e poi 8.000, e poi 10.000. Ma finché i malati rimangono pochi, noi non ci dobbiamo preoccupare. Pensate che c'è un lavoro bellissimo che è stato ripreso da Washington Post e è un lavoro che però riprende due lavori su Science e dice saranno questi asintomatici, cioè questi col tampone positivo, la chiave per finire l'epidemia? Perché voi immaginate che siano positivi tutti, ma nessuno si ammala o pochi si ammalano. Quella punto, sarebbe cioè, la situazione la ideale. A quel punto lì l'epidemia è davvero finita. Cioè lei dice occupiamoci dei malati, occupiamoci e subito, non dei positivi. Subito dei malati. Poi quando quello lì è malato, avrà incontrato delle persone, allora le tracciamo, ma di nuovo se non sappiamo dove metterli e li rimettiamo in famiglia, dove nella maggior parte dei casi non c'è la possibilità di isolare chi è malato dagli altri in termini di bagno, di camera da letto, eccetera, allora in realtà abbiamo fatto un lavoro inutile. Allora, ancora due domande. La prima è questa. C'è un'inchiesta oggi del Quotidiano Nazionale a dire troppi silenzi sui malati, cosa ci viene nascosto, chi sono, che età hanno. Ieri circolava questa breve notizia su, credo, il Messaggero Veneto, il Gazzettino. La leggo così. A Treviso, un nuovo decesso legato al coronavirus. Ieri è mancata una signora di 92 anni, già colpita da altre patologie. Era stata ricoverata. Si tratta del quarto decesso in una settimana. Lunedì era mancata una novantenne ospite di una casa di riposo e prima ancora un anziano di 91 anni e una signora di 97. Il Covid torna a far paura. Ora, professore, noi non sappiamo, perché non sappiamo queste povere persone di che cosa siano morte, ma 92, 90, 91, 97 saranno morte di Covid? Allora, quello che succede è tutti quelli che arrivano in ospedale adesso hanno il tampone e un certo numero di loro è positivo. Arrivano in ospedale perché hanno una malattia per cui devono essere ricoverati in ospedale o perché sono molto anziani e hanno una situazione di scompenso cardiaco, di problemi respiratori, di tumori, di ictus, di malattia del cuore. Molti di questi vanno, come sono sempre andati, in rianimazione. Allora, quello che noi dobbiamo sapere è se queste persone poi che erano positive al Covid vengono considerate come morti di Covid, è chiaro che anche i morti di Covid in rianimazione aumentano. Teniamo conto di un'altra cosa, che la quarta causa di ricovero in rianimazione degli anziani è una polmonite virale, è sempre stata una polmonite virale. Quindi da sempre. Allora, quei ricoveri di rianimazione che sono 300, quanti di questi hanno una polmonite virale? Forse li avranno anche in 200 o anche in 250, sì, ma sono diversi da quelli del 2019 e del 2020? Probabilmente no, perché avevamo come quarta causa di ricovero in rianimazione per gli anziani le polmoniti non batteriche, che si curano bene con gli antibiotici, ma virali. No, chiaro. Quindi anche sui morti dobbiamo avere le idee molto chiare. C'è una cosa che si può dire, che se voi guardate la curva dei morti, nel febbraio, marzo, aprile, questa curva era molto alta. La curva dei morti per settimana arrivava a 45-50 mila. Quelli lì erano sottostimati, perché non riuscivamo nemmeno a registrare tutti i morti. Mettiamo pure che al posto di 50.000 fossero 60.000, però l'andamento è un andamento che cresce fino alla metà di aprile e poi diminuisce. A settembre arriva quasi a zero, a settembre aumenta di un pochino in persone anziane che potrebbero essere quelle caratteristiche delle persone che ha appena descritto adesso lei. Non lo sappiamo, però registriamo questo dato di fatto. Io, professor Remuzzi, devo andare in pubblicità, la ringrazio molto, tante cose ce le ha dette, su cui ragionare, non su cui fare le tifoserie. 9:32 minuti, un attimo di pubblicità, chiamateci, poi avremo il questore di Reggio Calabria e comunque rimaniamo sui tanti temi da affrontare. Uno, nessuno, 100 Milan. the shindig. Chop top, it says I'm gonna win big. Choose not to life of imitation. Distant person to the reservation. Però io non ho mica capito perché i giocatori in campo possono stare senza mascherina e a contatto, perché a contatto ci vanno, e io devo stare con la mascherina all'aperto anche se non ho nessuno intorno. Ai Milan, da oggi per l'opinione pubblica mainstream tu sei ufficialmente un negazionista. Non è così, non è così, capisco l'ironia caro ascoltatore, ma non è così. Mascherine, mi raccomando, lavatevi le mani, distanziamento. Scaricate l'app Immuni, tutti quelli che dicono non mi fido dello Stato, io rispondo, vi fidate a dare i dati a qualsiasi social, al qualsiasi supermercato, al primo che passa date i vostri dati, e però lo Stato, l'app Immuni no. Ma noi ci siamo occupati di recente della vicenda di Carbone, lo sapete, paesino in provincia di Potenza, dove si sono candidate due liste, ha vinto una lista del sindaco Vincenzo Scavello, che si è dimesso immediatamente appena eletto, perché l'abbiamo raccontato, liste di perfetti sconosciuti, e tra l'altro una delle liste, quella vincitrice, pare, secondo i giornali, composta da alcuni agenti della Polizia di Stato. Allora, io ringrazio moltissimo il nuovo questore di Reggio Calabria, si è insediato da pochi giorni, dottor Bruno Megale, buongiorno e grazie di essere qui a Radio 24. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Tra l'altro lei è una persona di una brillante carriera, mega esperto di antiterrorismo, adesso si deve occupare anche di questa vicenda, mi permetta, che magari non era la prima che lei pensava di dover affrontare, o una delle prime. Assolutamente no. Assolutamente ci vuole aiutare no. A capire, cioè è vero intanto che ci sono dei rappresentanti della Polizia di Stato di Reggio Calabria che fanno erano in questa lista, insomma? Sì, sì, sì, no, il fatto è stato riportato correttamente. Stiamo facendo dei doverosi approfondimenti, non intendiamo assolutamente sottrarci a nessun tipo di responsabilità, su questo vorrei tranquillizzare ovviamente tutti i radioascoltatori, perché è assolutamente interesse della Polizia di Stato, e d'altronde le indicazioni del nostro capo da questo punto di vista sono state anche abbastanza precise, di fare un approfondimento rigoroso su quello che è successo, per verificare se il comportamento dei colleghi che sono appartenenti alla Polizia di Stato possa configurare dei profili di responsabilità di tipo disciplinare. Quindi stiamo facendo una verifica molto attenta, molto rigorosa su tutti i casi che sono successi, prendendo spunto da questo, e vorrei garantire il massimo della trasparenza e del rigore su questa valutazione. Giustamente lei ha detto responsabilità di tipo disciplinare, perché sa meglio di me che per quel che riguarda la legge è tutto a posto, cioè i dipendenti pubblici possono ottenere un'aspettativa di un mese pagata per candidarsi alle elezioni. Sì, sì, ma infatti l'aspetto presenta dei profili di delicatezza, perché qui bisogna contemperare quelle che sono, come dire, i diritti politici del cittadino, il poliziotto è anche un cittadino, con eventuali profili deontologici in questo caso. Poi se ci dovessero essere degli aspetti anche di natura diversa, questa non è una valutazione che spetta a quest'ora, sarà l'autorità giudiziaria di Potenza, del posto insomma dove è avvenuto il fatto, a fare eventuali valutazioni su profili, ma questa non è una cosa che mi compete. Pare che fosse quasi una moda per alcuni di loro, nel senso che non è la prima volta che si sono candidati, no? Sì, sì, è vero, è successo che si sono candidati anche in altre realtà, ed è quello che stiamo cercando di verificare, se questo fosse. Quindi se ci sono dei profili ovviamente censurabili sotto il profilo disciplinare, che poi è quello che compete a noi, e su questo volevo garantire il massimo della trasparenza. Ecco, su questo lei si è insediato davvero da pochi giorni, credo 3 o 4, ma ha avuto modo di incrociare qualcuno di loro, di parlare con alcuni dei loro responsabili? No, ancora no, perché stiamo facendo una verifica che non riguarda soltanto loro, è una verifica che ovviamente, prendendo spunto dall'episodio, sarà fatta a tutto tondo per vedere, insomma, poi non stiamo parlando proprio di dipendenti in senso tecnico della Questura di Reggio Calabria, anche se sono operanti in ambito di questa realtà. Cioè, cosa vuol dire questo? Non l'ho proprio capito, se può essere più chiaro per gli ascoltatori. Spiego, cioè, sì, un po' c'è la questura di Reggio Calabria, sono anche in realtà della Polizia di Stato di Reggio Calabria che non dipendono dalla questura, ecco, questo intendevo dire. Ah. Siccome poi sono degli aspetti di natura tecnica che ovviamente non sto qui a rappresentarle, ci sono delle competenze specifiche per ciascuno, cioè per alcuni sono competente io in materia di disciplina, per altri ci sono competenti altri colleghi, ma in ogni caso sarà fatta, e questo che importa, io credo, sarà fatta una verifica approfondita su di loro e su questi fatti che sono successi. Sì, tra l'altro spiegavamo l'altra volta che basterebbe cambiare la legge, questo ovviamente non compete a lei, che imponendo per esempio l'obbligo di raccogliere le firme anche per candidarsi in paesi sotto i 1000 abitanti o sotto i 5000, adesso non ricordo la legge, questo comporterebbe un obbligo di raccogliere le firme tra gli abitanti e magari... Sarebbe per la presentazione delle liste, sarebbe un po' più purtroppo al momento la legge è così, Sì. Cioè che prevede per alcune realtà che non ci sia l'obbligo di raccolta delle firme, e questo evidentemente anche in qualche modo agevola questa forma di... Certo. Senta, dottor Megali, in attesa di capire, io la ringrazio per insomma questo impegno, se vuole, se mi permette, che si è preso anche di fare trasparenza, magari ci sentiremo più avanti. Le chiedo un'ultima cosa: secondo lei il cittadino che immagine ha di una situazione in cui a livello di norme è tutto rigorosamente in regola, però sa che ci sono dei dipendenti, non so se questi in generale, che per un'aspettativa di un mese pagata si candidano così, giusto per stare a casa pagati e sono funzionari dello Stato? Posso dare una risposta da cittadino, in questo caso che sono un cittadino anch'io, certamente immagino che il cittadino possa sentirsi indignato, perché oggettivamente certi parrebbe che ci siano dei comportamenti da un punto di vista deontologico non proprio trasparenti, insomma, ecco, è quello che verificheremo, cioè faremo una è proprio per dare una risposta ai cittadini, perché la Polizia di Stato ha il dovere di essere trasparenti e di dare dei messaggi chiari ai cittadini, che prendiamo l'impegno di fare una verifica rigorosa. Queste sono state le indicazioni che noi abbiamo avuto al Dipartimento e che indicazioni che io condivido perfettamente. Perfetto. Allora, se lei è d'accordo, abbiamo i contatti con la redazione, dottor Megali, ci sentiamo quando ci saranno delle novità, se ci saranno. Intanto io la ringrazio ovviamente per essere stato con noi, questore da settimana scorsa, nuovo questore a Reggio Calabria, tra l'altro mi risulta essere anche reggino di nascita, quindi insomma conosce molto meglio di noi il territorio, vedremo se su questa vicenda di carbone davvero ci saranno delle novità. Rispondo all'ascoltatore che dice: ma sei sordo? Adesso se uno non risponde anche a ogni messaggio audio, cara DJ Luket, qua ti insultano. Sei sordo? Perché i calciatori non possono non portare la mascherina e noi no? Vabbè, ma ragazzi, ne abbiamo parlato anche ieri. La Serie A ha firmato questo protocollo per cui si gioca rispettando un protocollo. Dopodiché, come avete visto, come ho detto ieri, il calcio è nel pallone, questo protocollo rischia di saltare nel giro di poco, perché appunto la vicenda Juventus-Napoli fa capire che evidentemente secondo alcuni bisogna rispettare le regole imposte dalle ASL a tutti i comuni cittadini, anche per i calciatori, e se così è e quindi il protocollo calcistico della federazione va rivisto, allora banalmente non si potrà giocare a calcio e si sospenderà il campionato. Vedremo, per il momento è così. Traffico. Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta 1, nessuno, 100 Milan. Oggi come facciamo senza dentropiede? Come si fa? Non è che è andato al mercato per cercare le zucchine da mettere nel frigo. E poi ancora una volta te lo dico, Milan, si lamentano tutti perché manca l'inno sovietico. Qualche volta mettilo. Allora, e quelli che mi scrivevano hai rotto con l'inno sovietico, e quelli che mi scrivono vogliamo l'inno sovietico, se mi trovate l'inno sovietico. Hiroshima, Republic, Svobod, Svatilana, Veki, Velika, Rus, Da zdrazduje sozdani volje narodav, jedini magući Sovjetski Sajuz. Vabbè, basta, scusiamo questo scempio della musica, non da parte dell'inno ma da parte mia. Grazie, abbiamo dato anche oggi. C'è da dire, vorrei tornare un attimo indietro nel ricordare gli ascoltatori che mi scrivono: ma dov'è l'entopede? L'ho detto all'inizio che Leonardo Manera oggi non c'è per un impegno, ma torna domani. Non vorrei però, tornando a un passo indietro, all'ascoltatore che ha detto perché i calciatori non usano la mascherina mentre noi sì, non vorrei, l'ho spiegato il protocollo eccetera, piaccia o no, non vorrei che venisse utilizzato un po' all'italiana, come dire: ah, se lui non usa la mascherina, il calciatore, allora anch'io. Ma cominciamo a pensare, ma che è così difficile pensare di rispettare nel proprio piccolo le regole senza preoccuparsi di indicare con l'indice: il vicino di casa invece non ha la mascherina e allora anch'io ho diritto a non portarla. Ma voglio dire, il vicino di casa sbaglia, che devi fare? Allora, Costantino da Genova, buongiorno, eccoci. Buongiorno. Qui. Buongiorno. Prego. Ok, intanto chiamo da capolista, Milan, vabbè. Grande. Allora. Capolista quale? Capolista giusto? Capolista? Capolista a strisce, diciamo rosse e nere. Oh, va bene, basta. Promosso, Costantino. A me piace già il suo intervento. Prego. Esatto. Allora, io volevo parlare un attimo della questione, appunto, di questa cosa che sta succedendo, della colpevolizzazione dei cittadini. No? Sì. Io parlo da ristoratore. Allora, i ristoratori hanno applicato il protocollo Covid, tracciano i clienti, distanziamenti, mascherine, sanificazione e tutto il resto, e si è parlato ieri, fortunatamente sono tornati indietro parzialmente, perché poi le regioni in realtà potrebbero scegliere di far chiudere prima le attività. Sì. Però allora, intanto diciamo, per legge è stato eliminato, sono stati eliminati i clienti a pranzo, quindi un provvedimento del genere poi alla sera diciamo, avrebbe distrutto totalmente il settore, no? Però il discorso è questo: da una parte ci sono le aziende che hanno tracciato e hanno eseguito, dall'altra parte c'è il governo che ha permesso di andare in vacanza all'estero, di fare sbarcare persone che comunque sono risultate positive e sono pure scappate diciamo in giro per l'Italia. Hanno permesso gli spostamenti tra regioni, hanno permesso l'apertura delle discoteche, perché non è... Quindi lei giustamente da ristoratore, Costantino, dice: noi abbiamo dato, non rompeteci più. La traduco così. Noi abbiamo dato, ma dall'altra parte lo Stato ha tracciato qualcuno, mi risulta che abbia tracciato nelle persone che sono scappate dagli hotspot, hanno permesso l'apertura delle discoteche, perché quello che si dice è colpa delle regioni, non è vero. Perché se, come lo Stato ha chiuso le scuole, poteva dire: non si aprono le discoteche. Poi le hai aperte, e poi quando sono aumentati i contagi, automaticamente. Poi io, solamente un dato, io sono malato di statistica, no? Quando si parlava prima col professore del discorso di quello che è successo, io ho contato i decessi. Sono morte in 40 giorni 34.000 persone, e da quando abbiamo riaperto tutti i locali, da metà maggio a oggi, 1.000. Ora, no, ma sicuramente la situazione da questo punto di vista è migliorata, sì, fortunatamente, con tutto il rispetto. Sono i 34.000, quello che dico io. Cioè, la normalità sono i 1.000, certo. 4 mesi. Purtroppo a marzo è stata una situazione disperante, su questo non c'è dubbio. Comunque, Costantino, secondo me lei ha ragione, cioè i commercianti, gli esercenti, ma hanno fatto di tutto, ma già poi con questa paura che si è insinuata molto nella popolazione. Già chi è che va al ristorante? Sono molte meno le persone, ma tu entri in qualsiasi bar, ti dicono che il fatturato è crollato. Quindi mettere nuove norme oltre alla paura che già frena le persone a entrare mi sembra una follia. Certo, rispetto sempre delle regole. Angelo da Roma, buongiorno Angelo. Buongiorno Milan. Che dice? Guarda, io volevo fare un microscopico appunto alla sua affermazione secondo la quale bisognerebbe mettere la raccolta delle firme anche per i comuni, diciamo, piccoli, credo che sia sotto i 5.000 abitanti. Sì. Io credo che in Italia il problema sia proprio il contrario, cioè in Italia noi stiamo nelle condizioni in cui stiamo perché l'accesso alla politica, quindi l'accesso dei cittadini alla vita pubblica amministrativa è bloccato da leggi che chiedono di raccogliere migliaia e migliaia di firme per presentarsi sia al comune sia alla camera, per cui sostanzialmente ci sono dei blocchi che ormai si sono identificati in 4 o 5, che sono rappresentati dalle persone che sono già rappresentate in Parlamento. Angelo, che forse, si dividono. Ma lei ha ragione in generale. Chiudo il ragionamento e poi le dico sì. cosa perché questo ragionamento. Quindi tutto questo ragionamento limita l'accesso e quindi di conseguenza la libertà dei cittadini a partecipare alla vita pubblica. Ora, che ci siano state delle persone disoneste, sciocche, sì, che si sono messe tra le pieghe del sistema, perché il problema vero, certo, è che certo, questo sistema ha tutta una serie di pieghe e di malattie e di tumori burocratico-amministrativi nei quali la gente furba che conosce le regole si infila, però non è che possiamo limitare la libertà dei cittadini, dobbiamo prendere questa gente e facciamo un provvedimento di interdizione perpetua, sì, a presentarsi anche alle condominiali. Questo ero d'accordo, sì, con lei. Questo potrebbe essere considerato antidemocratico, perché loro dicono: perché io ho un'interdizione perpetua, io ho rispettato la legge, quindi mi candido anche la prossima volta. Comunque, Angelo, accolgo la proposta, o meglio la sua critica, vado al giornale radio, la seconda ora subito dopo. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Uno, nessuno, 100 Milan. Ma costa così tanto mettersi una cavolo di mascherina? Ma io non so. Ciao Milan, ma a proposito di Immuni, se mi arriva l'avviso, chi è che sa dirmi cosa devo fare? Conosco una persona a cui è capitato e si è trovata nel caos più totale. I calciatori entrano in campo avendo fatto tutti i controlli necessari. Il cittadino normale che gira per strada non è nella stessa condizione. Questa è la semplicissima differenza. A Milan, guarda che i gatti che ho in casa guardano la radio in modo beffardo, come per dire: ma cosa sta dicendo questo qui? Ma cosa sta cantando? Ai gatti, giustamente sull'inno russo ho fatto strabuzzare le vibrisse dei gatti del nostro ascoltatore. Va bene, chissà, magari anche i miei gatti che sono a casa da soli. No, è vero, non è che gli lascio la radio accesa, non ho questa megalomania. Però se ascoltassero i miei gattini Zen e Mojito, se ascoltassero me cantare l'inno russo, forse inizierebbero a fare quelle gobbe tutte ispide con i peli belli tirati in su. Chissà, devo provare, caro ascoltatore. Dai, la seconda ora di Uno Nessuno 100.000, hanno tante cose da dire. Intanto, sì, l'ascoltatore del calcio, non è detto che uno entri in campo e non sia positivo, ha fatto il tampone magari il giorno prima e magari si è positivizzato dopo, ma dai, non entriamo in questa questione, insomma, anche sulla questione delle mascherine. A proposito di calcio, ma avete sentito tra poco fa il giornale radio, stupendo, perché Marco Mancini ha concluso, c'era il ministro Spadafora che ha detto: non c'è alcuna sospensione del campionato di calcio, non c'è alcuna sospensione. Poi ultima notizia dell'ultima ora, subito dopo, il presidente della Lega, comunque Paolo Dalpino, è positivo al coronavirus. Non c'entra niente, per carità, ma questo per dire che il virus non guarda in faccia a nessuno. Allora, ecco, sulla questione delle mascherine però non esageriamo, cioè è ovvio che se uno sta passeggiando da solo sul marciapiede e non ha la mascherina, cioè ce l'ha abbassata, non succede niente, anche se sta passeggiando, che ne so, con suo figlio, se vivono insieme, voglio dire, no? Quindi non iniziamo a fare l'atteggiamento: ah, non ha la mascherina quello là a 50 metri da me, andate a prenderlo. Non iniziamo questa cosa, che già vedo oggi titoli contro la Movida. È tornata la Movida a essere presa di mira. Per esempio, ecco, uno che invece ha manifestato un rigore totale, invocando addirittura l'esercito in maniera blanda, è Piero Angela. Piero Angela ha detto: bisogna mettere tutte le mascherine, altrimenti, vabbè, sentiamolo un po'. Piero Angela. È un virus mortale. Ma si può dire, per favore, mettetevi la mascherina. Quindi sono un po' come gli untori. Certo, se ci sono delle regole, quindi vanno rispettate. Tanto più quando sono stati ben informati, che è estremamente rischioso, soprattutto se sono quelli asintomatici. Allora, non dico mica di mettere in galera così le persone che hanno la mascherina, per carità, ma di farla rispettare, questa regola, sì. Farla rispettare, e va bene, ci saranno le multe. Chi non porta la mascherina è l'untore. Ecco, attenzione sempre a indicare, se no poi il passo successivo è: hai il virus, vuol dire che è stata colpa tua, hai fatto qualcosa di sbagliato. Attenzione sempre a questo retropensiero molto cattolico della colpa, della punizione. Dai, un po' più di serenità, rispettando le regole e serenamente. Omar da Bergamo, eccoci Omar. Buongiorno Alessandro. Buongiorno. Diciamo che io lavoro nel settore del autonoleggio, sono un conducente di autobus, lavoro nella filiera. Si sente un po' male Omar, com'è il cellulare? Ah, scusa, lavoro nella filiera del turismo, e sappiamo che per noi il turismo ormai è da marzo, che non usciamo. Un disastro. E tengo a precisare che c'è anche la pubblica amministrazione che ci aiuta al disastro. Perché? Perché non pagano i servizi di scuola dell'anno scorso Non si capisce bene il cellulare, cioè non ho capito. L'hai ricevuta la cassa integrazione, se sei in cassa integrazione? Ho ricevuto solo i primi 2 mesi e basta. Ma come 2 mesi? Da maggio io non ricevo più la cassa integrazione. Ma perché? Cioè, perché? Com'è possibile che non ricevi la cassa integrazione? Chi te l'anticipa? L'azienda o nessuno? I miei titolari non percepiscono il contratto in essere dell'anno scorso sul servizio di scuola l'anno scorso. I comuni non vogliono pagare quello che è stato lavorato. Ma è incredibile, cioè come fai a vivere da adesso? Non è che vogliamo entrarti in casa nei portafogli. Com'è possibile che tu lavori e non ricevi la cassa integrazione da maggio? Così. Sì, come è vero, cioè io dico come è possibile, in realtà è una falsa indignazione, perché purtroppo è una vera indignazione, perché ci sono tante persone, lo so, nella tua situazione. Per carità, so che l'INPS sta, come dire, macinando richieste in un numero esorbitante rispetto al passato, quindi non è facile star dietro a tutto. Ragazzi, ma mettetevi nei panni di Omar da Bergamo, che da maggio, quindi maggio, ma a maggio l'hai ricevuta? A maggio? No, quindi quindi maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, sono 5 mesi, cioè quasi mezzo anno. E come si va avanti, Omar? A casa hai qualche soldo da parte? Sì, ho qualche soldo da parte, sì. Ho già mangiato delle mie riserve circa 7-8 mila euro. Permettetemi di dire una cosa, che nel lockdown, quando c'è venuto fuori il decreto sulle banche per fermare il mutuo, la mia banca non ha aderito, io non ho potuto fermare il mutuo sulla prima casa. Quindi il mutuo lo devi pagare. Sì. Quant'è al mese, se posso? Sulle 400 euro. 400 euro, che non è sospeso e non ha la cassa integrazione. Omar, facci sapere quando arriva, non so, richiamaci. Intanto un abbraccio, so che tanti italiani sono in questa situazione. Ecco, di questo effettivamente non ci si occupa molto, degli effetti a medio e lungo termine, di tutte quelle persone che non avranno tanto da mangiare o da portare a casa lo stipendio alla fine del mese, Questo non ci si occupa, è solo facciamo questo, mettiamo le mascherine, per carità, restringiamo le regole più restrittive, E come ci diceva anche Leonardo Manera, anche se oggi non c'è, coloro che dal mondo dello spettacolo da 8 mesi non lavorano e adesso arrivano le nuove regole restrittive che restringeranno ancora la presenza, immagino, nei teatri, facendo, immagino, presumo, saltare un'altra stagione teatrale, questo è il rischio, e non lavoreranno per altri 6 mesi. E lo so, adesso quello, coloro che non sono interessati da questo che diranno, e beh, dobbiamo andare a teatro e morire per questo? Ci dispiace per loro. Ecco, uno dice ci dispiace per loro, punto a capo, e si occupa di altro. Vabbè, dopo il traffico rientro da Sergio, dalla provincia di Milano, tra un attimo. Intimissimi uomo, boxer a 7,90€, nei negozi e online. Vi presenta... Uno, nessuno, 100 Milan. No Milan, di nuovo l'inno sovietico, no, non è possibile. Ecco, vedi, ho spento immediatamente vedi, la radio. Vedi. Ecco Milan, io te lo voglio dire, anche perché sono un ascoltatore quotidiano della tua trasmissione, ma senza il Bonetti la trasmissione perde il 40%. Anche il 50%, secondo me anche il 50% o 60%. Cioè, avete messo Cash, eh? Avete messo Johnny Cash, eh? Questa non la conosco, ma la riconosco dalla inconfondibile voce, gigante assoluto. Una di quelle voci che riconosci alla prima nota, come, non so, Pavarotti, no? una di quelle voci proprio pam, Johnny Cash. Profonda, vagamente nasale, stupenda. Va bene, senti. Got a shaggy dog, country boy, up a holler low. Sergio, provincia di Milano, eccoci qua. Pronto? Sì. Sì, buongiorno Milan, noi ci eravamo già sentiti qualche tempo fa, io sono rientrato ieri dalla Cina. Ah, come va in Cina lì? Tutto a posto? No, in Cina è tutto normale, diciamo, anche da un punto di vista industriale stanno rientrando abbastanza velocemente. E quindi adesso rientrato in Italia? E quindi sono rientrato in Italia e adesso non riesco a sapere cosa dovrei fare, cioè dovrei starmene in casa per 2 settimane. In che senso? Cioè ci sarà una regola? Adesso io non lo so, sfida Luchetti, sì, se uno rientra dalla Cina cosa deve fare? Deve stare 14 giorni a casa in isolamento, no? Esatto, però non dovrei anche autodenunciarmi all'ASL di competenza, che è l'ASL di Castano Primo, la quale però non risponde al telefono. E questo è un po' un problema, non so, ci sarà una mail. Ho mandato anche una mail, spiego. Io sono da 30 anni e sono diabetico tipo 1, quindi io mi inietto l'insulina tutti i giorni. Siccome io sono rimasto per 9 mesi in Cina, la mia scorta di insulina italiana era finita. Ah, ok. È tornato, ma per quello è tornato? No. Io l'ho comprata in Cina, okay, dove i prezzi sono anche più alti di quelli europei. Ho chiesto appunto se c'era la possibilità di avere un rimborso per questo. E vabbè, questo lo vedremo più avanti. Però, vabbè, cioè lei non riesce a comunicare con la ASL di Castano Primo, nel senso che non rispondono. Il telefono è continuamente occupato. Vabbè, e questo vuol dire che magari sono al lavoro, ci saranno tante chiamate. Una mail, ci sarà una mail dell'ufficio relazioni col pubblico di Castano Primo. Ha provato a mandare una mail. La PEC, di modo che sia una questione ufficiale. Certo, e vedo di risolvere in questo modo. Ma qua. Lei dice non so cosa fare, in realtà lo sa benissimo, deve stare 14 giorni a casa e mandi una PEC al mail della ASL. Sperando di avere una risposta, perché quando ho mandato un'altra email per quella questione delle insuline, Sì. Mi hanno risposto sì, ma dopo 14 giorni. Ho capito, però caro Sergio, c'è la questione della burocrazia. Lei mandi la mail con la PEC e lei è a posto. Poi se non le rispondono, lei comunque si è autodenunciato come doveva fare. Autodenunciato nel senso di dire sono tornato dalla Cina, sta 14 giorni a casa, se è tutto a posto con i sintomi, poi esce e basta. Adesso non entriamo in queste prima facevo le rubriche, la burofollia. Cioè non mi rimanga a casa due mesi in attesa della risposta dell'ASL di Castano Primo. Però vogliamo aprire una parentesi su una cosa diversa. Ci sono anche altre notizie e ci sono altri settori. Per esempio, un settore che va benissimo, noi lo abbiamo affrontato varie volte con Emilio Cozzi, che torna con noi, collega che è esperto di tecnologia, i games, scrive anche sul Sole 24 Ore. Emilio, ciao, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Alessandro, buongiorno a tutti. Allora, buongiorno ieri tutti. Leggevo sul Fatto Quotidiano il settore economico, le pagine economiche. Dei dati impressionanti nel senso del punto di vista positivo del mercato dei videogame, un mercato che non solo non conosce crisi, è in un'espansione gigantesca. Si parla nel 2020 di un fatturato possibile di 160 miliardi di dollari nel mondo. Esatto, esatto, e non solo, durante il lockdown, tra le pochissime industrie che hanno guadagnato di più sono proprio i videogiochi. Certo, perché tutti a casa esatto, a giocare. Sì. Tutti a casa, addirittura credo ci fossimo sentiti anche per questo. Come L'OMS, appena iniziata la pandemia, o meglio appena iniziato il lockdown, consigliò addirittura, abbastanza sorprendentemente, perché l'anno scorso aveva detto che i videogiochi in qualche modo sono legati a delle patologie, e invece a metà marzo consigliava a tutti di videogiocare il più possibile. Questo la dice lunga, insomma. La dice lunga. No, è un settore impressionante. Allora, tutti possono vedere i riflessi di questo settore guardando i propri figli impazziti giocare alla PlayStation piuttosto che alle altre piattaforme, ma in realtà c'è dietro proprio mercato di un lavoro in grande espansione. Italiani programmatori che vivono in tutto il mondo per programmare continuamente. Ma qual è il segreto di questo successo? Certo, una grande domanda, immagino, no? C'è una domanda pazzesca, oddio, magari il dato 160-180 miliardi lascia un po' freddi. Pensate, per capire di cosa stiamo parlando, che il cinema fattura meno della metà a livello globale, quindi ci rendiamo conto di cosa stiamo parlando, insomma. Sì, come dici tu, diciamo che il videogioco risponde a tante esigenze diverse e soprattutto io credo metta al centro le persone. Oggi noi siamo sempre più abituati, anche sui social, in qualche modo a essere protagonisti o a crederci protagonisti, e il videogioco fa esattamente quello. Il videogioco rende protagonisti di una storia, di belle storie, in tantissimi casi i videogiochi sono sempre più maturi, hanno storie davvero adulte, se si può dire così, e in qualche modo si è protagonisti, registi, attori e sceneggiatori di film interattivi magnifici. Questo è uno dei tanti aspetti. Il videogioco permette anche un pochino di fuggire dalla realtà, e una delle cose che io credo siano più efficaci, e ci dimentichiamo spesso, i videogiochi sono giusti. Cioè nei videogiochi vengono premiati coloro i quali se lo meritano. Non è una cosa esattamente comune, diciamo, nel mondo reale. No, ma poi ovviamente qui non affrontiamo, ma l'abbiamo già fatto in altre occasioni, caro Emilio, nelle distorsioni, perché certamente ci sono anche alcuni casi purtroppo di dipendenza da videogiochi. Come non esaminiamo i grandissimi campioni, le Olimpiadi? Cioè quali sono, come dire, dei picchi? È come dire io gioco a calcio oppure io sono un campione di Serie A, cioè tutti magari facciamo la partita di calcetto, quindi il mercato, noi stiamo esaminando il mercato, quello che arriva un po' a tutti, no? Non è corretto dal punto di vista strettamente, come dire, culturale, di approccio, e anche dal punto di vista psicologico. Il videogioco, essendo un mezzo estremamente potente, proprio per i motivi di cui parlavamo prima, ovviamente ha anche delle criticità di lati oscuri, per cui insomma qui nessuno ne sta tessendo le lodi acriticamente o viceversa dicendo che è da condannare. È un mezzo potentissimo, come tutti i mezzi potentissimi, fa del gran bene e fa anche dei danni. Come i telefonini, come tutto. Tanto è vero che, per esempio, io so che tu hai scritto un libro con Giorgio Calandrelli, che magari uno dice chi è Power. Se dico Power, tutti i ragazzi sanno chi è. Io sono Power, capito? E tra l'altro vende tantissimo. Cioè, capito? Sì. scrivono anche i libri e vengono venduti. C'è qualcuno che dirà: ma com'è possibile il libro di un giocatore professionista? E invece sì, cioè, è questo. E invece sì, invece apriamoci sì, a questa oggi... realtà nuova, inutile. Esatto, inutile. Esatto, la questione è questa. Oggi i grandi videogiocatori, come appunto Giorgio, come appunto Power, coloro i quali sostanzialmente mostrano tutti i giorni, perché Power è uno che streama, come si dice, cioè videogioca pubblicamente 7-8 ore al giorno tutti i giorni, quindi è veramente un mestiere. Ebbene, questi oggi sono i corrispettivi dei nostri Michael Jordan, dei nostri Federer e dei tuoi grandi giocatori milanisti, insomma. Esatto, atleti nel senso vero, che in qualche modo infiammano la nostra fantasia e ci fanno vedere come le grandi abilità possano dare risultati pazzeschi. Ne cito uno, Sinner, voglio citare, ragazzi, oggi c'è la partita dell'anno, Jannik Sinner, grandissimo italiano, promessa del tennis italiano, contro Nadal a Parigi. Nadal. È la stessa cosa, con anche la stessa, come dire, la stessa precauzione: non illudiamoci, non tutti sono Sinner, non tutti sono Giorgio Calandrelli. Non è che videogiocando 20 ore al giorno io mi trasformo in Giorgio Calandrelli. No. Come non è. Esatto. Ma qui mi interessa dire: intanto ci sono tantissimi programmatori, aziende, cioè si parla di un mercato. Ma addirittura leggevo che l'IKEA, non per non far pubblicità, ma mi ha incuriosito, l'IKEA è pronta a fare tutta una linea di produzione di mobili. Di mobili, tavolini, eccetera, uso e consumo dei giocatori, perché devono, ma guardi, io lo vedo con mio figlio, deve avere il mouse così, deve avere la tastiera fatta così, il sottomouse, come cavolo, sia il tappetino grande, cioè una roba ma vedi pazzesca. Ma questo, quella, la cosa che dici in realtà in qualche modo sottolinea anche perché oggi nell'e-sport, cioè l'electronic sport, quello appunto praticato da Giorgio, coloro i quali giocano a livello professionistico competitivo i videogiochi, ebbene oggi attraggono una serie di partnership, di sponsor non endogeni, si dice, cioè che nulla hanno a che vedere direttamente col videogioco, che però oggi investono marchi di abbigliamento, appunto grandi marchi di arredamento, automobili, beverage, bibite. Perché? Perché oggi i ragazzi, soprattutto quelli sotto i 28-25 anni, non li trovi purtroppo a leggere grandi giornali e neanche davanti alla televisione, ma li trovi a guardare Giorgio Calandrelli che videogioca e streama. L'altra volta è incredibile, c'era la partita del Milan. Gli ho detto: ma Mattia, ma tu non lo vuoi guardare il Milan? No, a me interessano i risultati. Ed era lì a guardare uno YouTube, non lo so, forse era lì a guardare Power, non lo so. E poi parla strano, non ne posso più. L'altro giorno papà ha immissato questa cosa. L'ho guardato, gli ho detto: cos'è che ho fatto? L'hai missata. Gli ho detto: cos'è che ho fatto? L'hai missata. Ma come parli? Missare, to miss, mancare. Ma imparassero l'inglese almeno, invece di questo inglese bizzarro. Guarda, c'è un altro fatto abbastanza significativo. Proprio in pieno lockdown, il CONI ha avviato in Italia le procedure per verificare ed eventualmente parificare a livello giuridico gli sport alle discipline tradizionali sportive. Detta brutalmente, la cosa curiosa è questa. In qualche modo non sono le Olimpiadi, non è l'e-sport che ha voglia di diventare disciplina olimpionica, sono le Olimpiadi che hanno bisogno proprio del pubblico sempre più vasto e, diciamoci la verità, anche degli sponsor che oggi l'e-sport attrae. Quindi veramente è un segno del mondo che sta cambiando. E caro Alessandro, io e te ci rivedremo a vedere le partite del Milan da soli bel giorno in casa. Che tristezza. Va bene, dai Emilio, ti ringrazio con questa immagine triste. Emilio Cozzi, grazie. No, ma leggete il libro, lo trovate anche se volete. Io sono Power, scritto da Giorgio Calandrelli insieme a Giorgio Calandrelli e Power insieme al nostro Emilio Cozzi. Giustamente mi redarguisce un ascoltatore, dice: oggi gioca anche Martina Trevisan, grande anche lei nei quarti di finale, sta facendo un torneo straordinario a Parigi. Quindi Sinner e Trevisan, speriamo davvero. Certo, Sinner è contro Nadal, è un po' dura, un po' come giocare contro l'Inter, insomma, nell'anno dell'Inter, praticamente arrivi e consegni 3 punti perché è fatta, come faremo noi nel derby alla ripresa del campionato dopo la sosta, caro Mauro Meazza. Insomma, è l'anno dell'Inter, quindi adesso siete a -2 e siete a +1 tra 10 giorni. Vabbè, sono cose che capitano. Il sorpasso, quant'è che ci battete? Quanti, fai il segno di quanti gol? 3? 3-3 a tavolino anche voi? Neanche 3-0, 3 a tavolino. Inter-Milan, è Milan-Inter o Inter-Milan? Inter-Milan, credo. Inter-Milan, 3 a tavolino per l'Inter. Così decretò Mauro Meazza, borsa. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta... 1, nessuno, 100 Milan. All good children need traveling shoes. Drive your problems from here. Ehi Milan, ascolta, sì, sono d'accordo con te, con i teatri poveri che per altri 6 mesi dovranno star chiusi. Ma io non ho sentito però da te parole di questo tipo quando ci fu il discorso della partita IVA. Anzi, hai risposto, ma mica ho deciso io per te che hai la partita IVA, potevi andare a fare l'impiegato. Quindi, come vedi, hai due pesi e due misure, a seconda di cosa ti fa più comodo. Che aggressività, caro ascoltatore. Io odio le come dire, il bianco e nero, si capisce anche calcisticamente parlando, quindi non credo di aver detto così tranchant come dire arrangiati la partita, ci mancherebbe, cioè, quindi solidarietà a tutti quelli che hanno la partita IVA. Avrò detto che in molti casi è una scelta. Adesso mi scriveranno quelli che dicono per me non è stata una scelta. Ragazzi, non è che posso parlare singolarmente di ogni singola persona, perché quando canto l'inno russo ad alcuni sta bene, ad altri spengono la radio. Come faccio a mettere d'accordo tutti? Non lo so. Quindi, ma figurarsi se io dico arrangiati hai la partita IVA. Io dico sono un privilegiato rispetto a chi ha la partita IVA, perché posso stare in malattia pagato e posso dire però che ho dei vincoli essendo un dipendente della radio, che magari uno che ha fatto la scelta della partita IVA non ha, e se si vuol prendere mezza giornata di vacanza lo può fare, io no. Cioè, sono a volte scelte di vita, a volte situazioni in cui ci si ritrova, è tutto così complesso, non è che arrangiati la partita IVA. Se l'ho detto così in un momento, mi scuso e ho sbagliato, ma non lo penso, non è che penso in maniera così tranchant. Ti piace, Alpino? Tranchant. Adesso voglio salutare una coordinatrice infermieristica del reparto di chirurgia all'ospedale di Codogno, Ada De Maggio. Buongiorno e benvenuta, grazie di essere qui con noi. Buongiorno, grazie allora a Alessandro e Leonardo. Oggi non c'è Leonardo, ma nel cuore è con noi. No, noi tra l'altro, Ada De Maggio... Vabbè, intanto Codogno non c'è bisogno Codogno, di dire. Infatti, ormai Codogno è diventato famoso. È un nome che sappiamo. Lavoro a Codogno, allora tutti si girano. Sì. No, spero che non ci sia, anche se purtroppo ci sarà un po' di così. Cioè, dici lavoro a Codogno e la gente cosa fa? Beh, cioè, no, oddio, adesso ormai Codogno è diventato un po' famoso dopo questo, no? Ma che poi va adesso meglio, molto meglio di allora. Quindi, adesso sì, molto meglio. Continuiamo comunque a seguire delle regole, dei protocolli, sì. Teniamo semplicemente a dei protocolli regionali, aziendali e comportamentali per evitare che insomma scoppi o succeda ciò che è successo qualche mese fa. Ma poi intanto l'abbiamo ormai accertato, insomma a Codogno ci fu il primo caso accertato, ma in realtà ce ne sono stati molti altri anche prima. Allora, ogni giorno Ada De Maggio percorre 40 km in bicicletta, 20 andare, 20 a tornare, per andare a lavorare. Che è anche questo un viaggio, oltre al viaggio quotidiano del reparto, no? Sì. Diciamo che è qualche anno che lo faccio, è qualche anno perché è una mia valvola di sfogo, insomma, poi comunque è un momento mio di libertà, è un momento freedom, è un momento di, diciamo, di benessere fisico, perché mi dà la possibilità di stare, di pensare, di starmene anche per i cavoli miei e di diciamo, di scaricare la mente, quindi l'ho utilizzato parecchio durante il periodo del lockdown, ho prefruttato, sì. Di solito si comincia in primavera, si comincia ad andare in bicicletta un po' di più, quest'anno ho iniziato molto prima, a dire il vero anche prima che scoppiasse tutto, perché se vado a rivedere alcune foto che ho scattato, le ho scattate anche perché mi fermo ad ammirare il paesaggio. Io credo che però in questo periodo, a maggior ragione per il tipo di lavoro che fate, adesso non userò la retorica degli eroi, sì, eccetera, sì, ma per il tipo di lavoro che avete fatto, riuscire, e che fate tutti i giorni, a contatto con la sofferenza, riuscire a prendersi un momento di isolamento, di stacco mentale. Sì, sì, sì, è fondamentale, fondamentale. Ripeto, ribadisco, soprattutto in quel periodo famoso mi è servito parecchio. Però diciamo che proprio come valvola di sfogo è una cosa che ho utilizzato sempre, da anni che vado in bicicletta a lavoro, sperando anche di influenzare molte persone in questa cosa, perché insomma, quando tu vedi le persone che magari abitano a 5 minuti o a 2 chilometri dal lavoro prendere in mano una macchina, dici ma scusami, ma se lo faccio io lo puoi fare anche tu. Quindi se posso anche essere, cioè mi piace questa cosa di aver influenzato anche qualcuno positivamente, esatto, perché qualcuno mi sta imitando in questa cosa, ho visto che qualcuno ha preso in mano la bicicletta e fa. No, ma è stupendo perché lo so, infatti non è che Ada De Maggio viene intervistata perché è responsabile infermieristica del reparto di chirurgia generale a Codogno, ma perché fa così, perché va anche a lavorare in bicicletta, insomma, è un messaggio positivo, un messaggio di benessere fisico, sportivo, insomma. Lo sport fa bene, ci aiuta anche a aumentare le difese. Se aumentiamo le difese ci ammaliamo anche di meno. Insomma, io facendo le corna, scusatemi, però in questo modo riesco anche a aumentare le endorfine. E stare meglio fisicamente. Io mi sento molto meglio. Anzi, e se non lo faccio, devo dire la verità che proprio mi manca. Mi sento in colpa se vedo che piove e non lo posso fare. Quindi cerco di farlo più che posso. In tutto questo, per concludere, qual è la situazione, ma proprio da operatore, da operatrice a Codogno, quando tutte le volte si rientra nei reparti di ospedale? Insomma. Ma attualmente la situazione è stazionaria, ci attiniamo a quello che sono delle regole che abbiamo, dei comportamenti che ormai fanno parte di noi e che abbiamo preso da quel periodo bruttissimo che c'è stato, critico, e quindi qualcosa abbiamo fatto di nostro, questa cosa qua naturalmente ci ha fatto imparare sicuramente, sì. Quindi sicuramente saremo più pronti e preparati se mai dovesse succedere un'altra catastrofe, che magari non sarà neanche come quella precedente, sì. Però insomma si spera tutti che non succeda. Ma sicuramente siamo tutti più pronti, poi insomma tutto sta a noi, secondo me anche al singolo individuo, insomma se tutti, ognuno mettesse del proprio. Il rispetto sarebbe, come abbiamo detto, bravo. delle regole banali, lavarsi secondo le mani, quelle che ormai sappiamo tutti, mascherine. Secondo me se tutti, se ognuno contribuisse, tanto ormai vuol dire lo sentiamo e lo risentiamo, ce lo dicono continuamente, insomma ormai è diventata una regola di vita, è impossibile che facciamo finta di niente, che ci trattiamo le orecchie e gli occhi. Questo se sì. Tutti potessimo contribuire, insomma sarebbe buono. Buona pedalata Ada De Maggio, grazie. Buona pedalata anche oggi. Grazie tante. Ripeto, coordinatrice infermieristica del reparto di chirurgia generale dell'ospedale di Codogno, ogni giorno fa 40 km, 20 andare, 20 tornare, per andare a Codogno a lavorare. E andiamo a sentire il traffico. Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta 1, nessuno, 100 Milan. Poi ci lamentiamo che siamo un popolo di ignoranti, che non si legge più niente, che non abbiamo cultura, e vi fate questo gran spot sui videogiochi. Bravi, bravissimi. See the love, the bird that's sleeping. Alino, quando il Milan a dicembre sarà fuori da tutto, ti ritroverai a giocare alla PlayStation con tuo figlio. Capita, comunque non abbiamo fatto spot ai videogiochi, abbiamo parlato del mercato dei giochi, che è una cosa ben diversa, visto che vale più del cinema, più del doppio del cinema a livello mondiale. Comunque mi sento un pochino solo, adesso non c'è Leonardo Manera, sono un po' a chiudere questa Ma veramente? Ma che succede? Carissimo, Alessandro, no. Esimi ascoltatori tutti, questo tono solenne, perché colgo l'occasione per introdurre Elisabetta un tema Foscone. Serio. Buongiorno, cosa vuoi? Ciao Alino, buongiorno. Cosa vuoi? No, ecco, ciao, volevo Alino, approfittare sei, di questo momento. Canton Giura, dove sei in Canton Uri? Purtroppo vorrei essere in Canton Ginevra e ti spiego perché, ma non lo sono. Perché? Ti sarà giunto alle orecchie, sarà giunto alle orecchie anche degli ascoltatori, che nel vicino Canton Ginevra hanno appena approvato un salario minimo garantito di 3.600 euro al mese. Quanto? Il che equivale... 3.600 euro al mese equivale a una paga oraria di 21 euro e mezzo all'ora. 3.600 euro al mese? Perché tu sei qua? No, ecco, esatto. Volevo dirti che da oggi intendo portare avanti una grande battaglia di civiltà all'interno della redazione di Uno, Nessuno e 100.000, perché anche a me, a DJ Lucchet e a Lorenzo Nespoli venga conferita ginevrino. Una paga oraria assimilabile a quella dei connazionali ginevrini. E sottolineo connazionali. No, veramente esattamente. No, DJ Lucchet non è svizzero. Gente che prende il passaporto svizzero per questo, insomma. Cioè, fammi capire. Ho pensato che la Svizzera quale sono, voglio un trattamento svizzero. Vai a Ginevra, ma vai a lavorare a Ginevra, fare ancora, non so, la muratora a Ginevra e c'hai uno stipendio. Non posso, è come chiedere a un missionario di tornarsene a casa. Alessandro, ecco. Lo sai che sono qua, ho un compito ben preciso, un dovere a me di farti da danni, di doverti richiamare all'ordine. Io non posso, purtroppo. Vabbè, quindi, sai che scusami, prendo... giusto per curiosità, quanto costa mangiare una pizza a Ginevra? Così, giusto per allora, diciamo che ti viene via con 25 euro una pizza e una Coca-Cola, 25 ecco. euro una, capisci perché 3.600, ma magari 23 se vai in vai in se posti prendi, sì, la margherita senza mozzarella. Ma io dico, cioè, con tutto, allora, Elisabetta Fusconi è svizzera quando sta in Svizzera, fa la Svizzera quando sta in Italia, vuole lo stipendio svizzero ma se ne sta in Italia, con questa stipendio roba che dovrebbe ginevrino far vorrei stipendio ginevrino. Tra l'altro ricordiamo è il minimo del salario, 3.600, tu ti accontenteresti? Ma il minimo, allora, ma no, io pretendo il minimo, quella il minimo, Svizzera. Il minimo. Sì, il minimo, almeno il minimo garantito. Tra l'altro, a fare dell'ironia, però io ho fatto un paio di calcoli, ho pensato anche alle famiglie ginevrine le camere avranno alle dipendenze una colf, una badante, una babysitter, alla quale dovranno garantire questo tipo di stipendio. A Ginevra, tra l'altro, mi risulta che una casa per una famiglia di 4 persone, una fitta oscilli dai 3.000 e 6.000 franchi al mese, insomma, viaggiamo su cifre che forse è meglio stare in Italia. Forse è troppo facile fare così del qualunquismo. A Milano. Brava, allora me ne sto qui a breve distanza tua. Va bene. Volentieri. Più salario meno orario, più salario meno orario. Contrattenuti a signor Milan. Più salario meno orario. Ciao Elisabetta Fusconi, collegata con la nostra app. Devo svelare anche questa cosa. Si collega con l'app e dice, scrive nella chat: ma come si fa a collegarsi con l'app? E DJ Lucchet le risponde: schiaccia il bottone. Siamo a questi livelli, schiaccia il bottone e vuole 3.600 euro. Perché mi metti l'inno sovietico adesso? Vabbè, adesso siamo in chiusura, manca 2 minuti, vogliamo sentire prima Salvatore dalla provincia di Milano. Comunque, capito? Vuole schiacciare, non sapeva come collegarsi, l'istruzione è stata schiaccia on, on. Elisabetta Fuscoli, va bene. Salvatore, buongiorno, prego. Buongiorno, prego. Senta, io le dico alcune cose, poi deve essere lei a trarne le conclusioni. O gli ascoltatori. Tralascio quello che ha scritto Repubblica, perché hanno una povertà mentale galattica. Adesso non esageri. Io l'ho criticato, ma adesso una povertà mentale mi sembra esagerato. Comunque, c'è stato uno che ha chiesto a un'altra persona, ma come avete fatto voi? E questo gli ha risposto, guardi, può farlo sia il nazismo, il fascismo, il comunismo, la democrazia, basta incutere paura alla popolazione e gli fai fare quello che vuoi. Questo l'ha detto, la risposta, al giudice Göring durante il processo di Norimberga. Vabbè, certo. Adesso tragga le conclusioni. Non citiamolo come grande ideologo Göring, nazista, non citiamolo come... come dire. E vabbè, Salvatore, cioè lei ci sta dicendo che ci stanno incutendo paura per controllarci, certo, questo sta certo, ci stanno certo. incutendo paura. Ma chi? Cioè, nel senso, il governo. Il governo, però è in tutto il mondo il coronavirus, quindi tutti sì, ma i governi. No, come da nessuna parte, fino al 31 gennaio è stato di emergenza. Ah, lei dice va bene, insomma, è un po' la visione di alcuni, se mi permette, alcuni anche un po' complottisti, a dire c'è la paura che ci controlla. Questa è l'idea di Salvatore. Va bene, chiudiamo con l'inno sovietico e ci sentiamo domani. Più salario, meno orario, più trattenuti al signor Milan, più salario, meno orario. Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta, non la lascia più. Vai su aruba.it.